Martedì 26 febbraio alle 17.30 in Viazzo Gardino 44, che è il centro costa, facciamo un'assemblea pubblica verso lo sciopero dell'8 marzo. Abbiamo dato questo titolo, Donne sull'orlo di una crisi di numeri, perché è proprio il titolo di una ricerca, di uno studio che abbiamo fatto. Soprattutto l'ha curato una delegata USB di Roma, che è una ricercatrice ISFOL, e questo studio riguarda la disuguaglianza di genere nel mondo del lavoro. Quindi l'idea è di discutere a partire da tutta una serie di dati che comunque questo studio, questa ricerca fornisce. Se vuoi, io qualche dato indicativo posso già dirlo. Sì, sì. In sostanza possiamo partire dalla questione del gap salariale, cioè della differenza di reddito da lavoro tra uomini e donne, e quindi per esempio nel lavoro dipendente le donne sono pagate il 23% in meno rispetto agli uomini, percentuale che sale al 29% per il lavoro autonomo e che addirittura al 38,5% tra le lavoratrici più istruite, cioè più sei istruita più c'è questo differenziale. Ora devo spiegare una cosa: qui non stiamo parlando di contratti differenti, è chiaro che i contratti di lavoro sono gli stessi, qui stiamo parlando di una situazione nel mondo del lavoro che determina il fatto che le donne, anche a parità di competenze, di istruzione, sono comunque inquadrate in modo diverso oppure sono costrette al part-time, eccetera. Vado avanti con alcuni dati. Per esempio, nel mercato del lavoro l'occupazione femminile è al 49,5%, quella maschile al 68%, quindi sembra un divario di poco conto. Ma se andiamo a vedere il tasso di inattività, che cos'è l'inattività? Quando smetti di cercare lavoro, quando non lo cerchi, non ti registri come disoccupata, l'inattività delle donne arriva al 44%, al contrario di quella degli uomini che è al 25%. Sono dati molto molto pesanti. A questi vanno aggiunti, sto solo facendo alcuni esempi, va aggiunto il dato dei 50 miliardi di ore di lavoro non retribuito, cioè tutto quel lavoro che viene svolto, che è lavoro, ma che avviene, diciamo, cosiddetto nella cura, che comunque non è retribuito. Se noi pensiamo che invece in un anno sono 40 i miliardi di ore lavorate, quindi retribuite, anzi mio dire retribuite, cioè ore che ti vengono retribuite anche se stai in ferie, noi comprendiamo quanto maggiore sia il lavoro non retribuito, e di questo la gran parte grava sulle spalle delle donne. Questi sono dati su cui dobbiamo ragionare, perché altrimenti non capiamo, diciamo, anche come attaccarlo tutto questo fenomeno, come questo fenomeno deve diventare una battaglia politica e deve diventare necessariamente una battaglia sindacale, insomma. E anche ci servono questi dati per ragionare e comprendere anche le scelte che sono fatte dai diversi governi. Guardiamo oggi al reddito di cittadinanza o la quota 100, che sono comunque discriminanti per le donne, perché considerano soggetti in condizioni differenti, le trattano allo stesso modo. Quota 100 prevede che tu debba avere un'anzianità di contribuzione di 38 anni, fai finta di non sapere che per le donne queste quote sono pressoché irraggiungibili, perché hanno tutti i buchi legati alle maternità, la difficoltà di accesso al lavoro. Ma potrei continuare, insomma il ragionamento è: ragioniamo a partire dai dati, ma per comprendere complessivamente, e anche per comprendere per esempio gli effetti di politiche come il DDL Pillon, no? Che anche quello è un attacco feroce ai diritti delle donne e che si maschera dietro una presunta posizione uguale del padre e della madre, quando invece le donne hanno spesso redditi di gran lunga inferiori, e questo determinerà conseguenze molto pesanti, e come determina conseguenze pesanti rispetto ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza, che quando tu hai un reddito basso e magari devi accedere al mercato della casa, che sappiamo qual è, e questi sono tutti ostacoli pesanti ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza.